Questo mi sembra di capire che in questo quadro che hai fatto Gesù è l'incarnazione dell'esigenza di Maria. È il risultato, cioè Gesù è il risultato dell'incarnazione dell'esigenza di Maria. Il Il risultato risultato, è il il risultato, resto. sì, il risultato, non la, Il perché, frutto. Sì. o il frutto, sì, il Sì, risultato, il l'esigenza frutto, di Maria. ecco, in questo senso, sì, perché cioè, lei, cioè, in realtà lei ha incominciato la vera storia umana, cioè, come storia di coscienza di sé, quindi. E il fatto, voglio dire, di aver incarnato Gesù, di aver incarnato Dio, per me, voglio dire, questo non lo propongo neanche perché non so ancora spiegarlo, anche per me, cioè è ancora una cosa di fede, però lo comprendo, perché quando tu capisci chi sei, ti apri alla comunione con tutto quel che c'è. Certo. E quindi che tu incarni, cioè è chiaro che incarni, puoi incarnare anche Dio, perché sei aperta alla comunione di tutto quel che c'è quando ci sei tu. E se non ci sei tu, non c'è niente. Non c'è niente. E se non ci sei tu, c'è tutto il resto, ma tu non ci sei, quindi è come se non ci fossi. Sì, stavo pensando come la dottrina, come viene insegnata, com'era, adesso non lo so, tanto che non ci vado. Richiederebbe Sempre qualche. lo stesso. Comunque Sempre lo non mi stesso. sono accorto che qualcuno abbia detto no, ci eravamo proprio sbagliati, No, no, scusate. no. Ecco, e dall'altra vedo come il mondo più scientifico, come la psicologia, ma non è molto meglio della catechesi, Condizionamento e cultura perché anche sono quello. condizionamenti tremendi, cioè pensa, la maggioranza parte della psicologia non si occupa dello sviluppo spirituale dell'essere umano, cioè che è il nocciolo di cui È siamo. un altro condizionamento, Ma ben certo. forte. Condizionamento perché oltretutto voglio dire anche con una pretesa scientifica che Appunto bisogna che stare attenti. oggi Sì, è la nuova forse. religione, perché poi la maggioranza gente crede in quello, con una pretesa scientifica. Scientifica quindi determinista. Determinista. E quindi esclude la diversità Però biologica. posso dirti una notizia buona dal punto di vista della scienza. Adesso si è scoperto scientificamente che esiste il cervello del cuore, cosiddetto, no? Un nucleo. Per cui si è visto proprio che ci sono un gruppo di neuroni che sono vicini al cuore, che quindi non c'è solo il cervello della testa, non c'è solo il cervello arcaico, ma c'è un cervello che è quello del futuro, che se è lui che guida, allora tutto il sistema Secondo si allinea. me è una cosa bellissima È questa, bello perché certo. quello, in modo, siccome la Sì, scienza oggi è l'unico linguaggio che viene più o meno riconosciuto, il fatto di dire guarda che noi siamo mezzo sviluppati, come fossimo un gatto che sa camminare ma non sa saltare, e per quello che abbiamo problemi. Cioè, questa è un'altra idea importante di pensare, perché cioè nella nostra esigenza di essere più di quello che noi siamo, cioè, molto spesso c'è anche l'illusione di essere quello che pensiamo, di Certo, poter sì, essere, e certo. invece c'è questo equivoco che non c'è se tu non lo crei. Questo è molto Sì, non c'è se non importante. lo crei, Se no certo. c'è appunto, Certo, sì. Non c'è se non lo crei, lo devi se creare. cavo tu. Se non lo crea. Mettiamola così in termini di metafora. Io ho un giardino, posso coltivare certe piante o certe altre. È chiaro che nel mio giardino possono venire fuori delle piante straordinariamente belle, ma io devo coltivare. Di solito le devo coltivare parecchio, tutti i giorni, con dedizione. E questa è una cosa che oggi manca molto nelle persone. Credono che si dovrebbe star bene, si dovrebbe stare senza coltivare il giardino, senza un impegno quotidiano. C'è il cortocircuito, ecco cosa volevo dire, il cortocircuito fra l'esigenza Sì, che è è questa giusta che è giusta. e la volontà che si compia l'esigenza Così. misteriosamente, così, Allora, senza che uno ci ci lavori e la lavora. crei. Prima si chiedeva a Dio, adesso si continua a chiedere a Dio, ma si pretende da tutto quello che c'è. Da tutto quel che c'è, non solo da Dio, dalla Sì, scienza, beh. dai politici, Eh sì. si pretende che tutto quello che è fuori di te ti dia risposta. A quella, e invece sei tu che devi crearlo. Ecco, questo volevo dire, proprio mi era scappato. Sì, l'idea della fatica, del sacrificio... Ma guarda che non c'è da fare né fatica né sacrificio. Ma se si è sperimentato, allora sì, ma per chi non ha così chiara questa cosa... E bisogna dirglielo che tutto tranne il sacrificio si comincia, quando si riponde a se stessa si comincia a godere. Sta bene. Ci sono veramente da riprenderci in mano. E rifarci da capo, prenderti in mano e rifarci da capo, perché poi va tutta, perché se si fa questo passaggio si recupera tutto, si recupera tutto a un livello molto alto, si recupera tutto, ma se non fai questo invece tutto quello che è stato fatto, anziché un aiuto diventa un'oppressione, un condizionamento. Ecco, così qui siamo. Io sono impegnata in questa battaglia, se voi siete impegnati in questa battaglia, assolutamente andiamo sì. avanti. Sì, assolutamente. Sì. Sottolineo la parola battaglia, tutti cercano la pace. Ecco. Questa è una battaglia. È vero o no? È una battaglia. Questa abbiamo appena detto. Ma ieri ancora stavamo lavorando insieme e una ragazza mi dice... Ma io voglio sentirmi che sia, cioè in pratica tutto voglio... armonico, tutto in pace. Questo... E questa è la diversità fra il buddismo, fra l'altro, che diceva che dico, guarda che cioè noi dobbiamo uscire, voglio dire, dalla quiete, porca miseria, scusate, perché lì c'è la morte, dobbiamo veramente andare sempre avanti, sempre avere una prospettiva. Cioè, ma che quella è una battaglia. Quella è una battaglia. All'inizio, poi dopo è una costruzione. In questo senso il messaggio di Gesù su questo c'è, che non è visto bene. Cioè, io dico che Gesù ci ha regalato due cose. Ci ha regalato il futuro, Già. Il messaggio più non è l'amore, è il futuro. C'è un futuro. Il futuro. E il futuro che è nelle nostre mani, possiamo costruirci. E ci ha detto che l'uomo può essere perfezionarsi all'infinito, fino a divinizzarsi, fino a diventare come Dio. Cioè, queste due cose che sono, secondo me, l'essenza del messaggio. E chi ne parla? Esatto. E chi ne parla? Chi ne parla di questo? Cioè, questo è il vero, assolutamente cioè, capito che ci ha dato, che tanto ci ha detto, voglio dire, che il futuro è nelle nostre mani, sarà come noi vogliamo, perché è la nostra creazione, e che l'uomo è perfettibile fino al divino. Questo, cioè, che poi il suo messaggio di amore, ma questo l'hanno detto tanti altri, lui l'ha detto anche lui, ma l'hanno detto tanti altri. In più ha detto amare anche i nemici. Va bene, però la cosa essenziale è questa, è il futuro e la perfettibilità dell'essere umano. Ci ha dato risposta a quello che gli esseri umani hanno sempre cercato. Questa esigenza che c'è dentro. Sempre.